Buongiorno a tutti, sono Katia Serra, responsabile calcio femminile all'interno dell'Associazione Italiana Calciatori, che è il sindacato di riferimento per tutti coloro che giocano a calcio, uomini, donne, dilettanti e professionisti. Da dove viene l'AIC, Associazione Calciatori? Un'associazione nata nel 68, cui il presidente Sergio Campana è stato diciamo, il promotore, lui un giocatore di Serie A, si mise insieme a Mazzola, Rivera ed altri giocatori importanti per costituire il sindacato. Poi già dal 2011 c'è stato il passaggio di consegne e l'attuale presidente Damiano Tommasi, ex calciatore della Roma, della Nazionale, appunto sotto la sua presidenza l'associazione ha aumentato l'attenzione nei confronti dei temi sociali e di tutto quello che riguarda anche il calcio nelle sue diverse forme. Perché avete deciso di partecipare ai mondiali antirazzisti? È la terza edizione in cui siamo presenti perché noi crediamo molto nel valore del calcio come mezzo di integrazione, come situazione di divertimento attraverso il pallone per mettere insieme etnie e generi differenti. Dopo la prima edizione in cui abbiamo partecipato con grande entusiasmo abbiamo avuto conferma di aver fatto la scelta giusta, per cui siamo contenti di esserci ogni anno e ogni anno volutamente partecipiamo con una squadra mista, calciatori e calciatrici, proprio per lanciare questo messaggio di integrazione. E secondo te pensi i mondiali antirazzisti possono lottare il razzismo soprattutto in Italia e altri paesi? Noi ce l'auguriamo, infatti poi come sindacato siamo attivi anche con altre forme e altre iniziative per combattere il razzismo, visto che purtroppo anche a livello professionistico in Serie A i calciatori di colore subiscono degli episodi negativi. Ci ricordiamo Muntari quest'anno, dove noi appunto gli siamo stati vicino e abbiamo gestito tutta la situazione facendogli anche togliere quella squalifica che inizialmente gli era stata inflitta. Quindi siamo proprio convinti che attraverso la partecipazione attiva in manifestazioni contro il razzismo si possa fare del proselitismo per sensibilizzare l'opinione pubblica, sensibilizzare le persone e capire che il calcio è di tutti e per tutti e quindi è bello vedere sul campo la partecipazione di persone che provengono da tutte le razze, da tutte le etnie e da tutto il mondo. Qual è il messaggio che potete lanciare ai altri squadre, altre persone che vengono a partecipare ai mondiali? Di venire per divertirsi, di venire con lo scopo appunto di lanciare un messaggio di unità, di collaborazione, di cooperazione e di rendersi conto che solo attraverso la partecipazione attiva si può provare a costruire un percorso di cultura sportiva migliore. Grazie mille. Grazie a voi e complimenti per l'organizzazione.